Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Qualche mutamento d'espressione si imponeva ai due signori mentre varcavano la soglia del salotto di Mrs. Weston. Il reverendo Elton doveva temperare l'aspetto ilare e Mr. John Knightley cacciar via il malumore. Il primo sorridere di meno e il secondo di più per inquadrarsi nell'ambiente. Solo Emma poteva essere quale natura consigliava e mostrarsi felice esattamente come si sentiva. Per lei, trovarsi coi Weston era un autentico piacere. Il signor Weston era uno dei suoi beniamini e con nessuna creatura al mondo Emma parlava senza veli come con la moglie. A nessuno confidava con tanta convinzione d'essere ascoltata e compresa, di riuscire sempre interessante e sempre intelligibile. Le piccole faccende, le piccole decisioni, le piccole perplessità e le piccole gioie sue e di suo padre. Nulla poteva dire di Harfield per cui Mrs. Weston non provasse vivo interesse. E mezz'ora di ininterrotta comunicazione reciproca di tutte le piccole cose dalle quali dipende la felicità quotidiana della vita privata era per entrambe una delle massime gioie. Era una gioia che, forse, la visita di un'intera giornata poteva non offrire, e certo non apparteneva a quella mezz'ora. Ma anche solo la vista di Mrs. Weston, il suo sorriso, il contatto della sua mano, la sua voce, erano per Emma un tale conforto che decise di pensare il meno possibile alle stravaganze del reverendo Elton e di godere in pieno tutto quanto v'era da godere. L'inconveniente del raffreddore di Harriet era stato discusso a fondo prima del suo arrivo. Mr. Woodhouse era rimasto comodamente seduto il tempo necessario per rifarne tutta la storia, oltre a quella della venuta sua e di Isabella e del prossimo arrivo di Emma, e aveva appunto finito di esprimere la propria soddisfazione che James potesse rivedere la figlia quando gli altri comparvero e la signora Weston, che era stata quasi interamente assorbita dal circondarlo di premure, poté disimpegnarsi per dare il benvenuto alla cara Emma. Dato il progetto di dimenticare per un po' il reverendo Elton, Emma fu piuttosto seccata, quando tutti ebbero preso posto, di constatare che l'aveva accanto. Ben difficilmente poteva, infatti, cacciar di mente la sua strana insensibilità verso Harriet, quando non soltanto le sedeva a gomito, ma continuava a fare sfoggio della sua espressione giuliva e a rivolgersi a lei in ogni occasione con tanta sollecitudine. Invece di farla dimenticare, il suo modo d'agire le sussurrava all'orecchio la domanda: «Possibile che sia come mio cognato s'è immaginato? Possibile che quest'uomo stia cominciando a trasferire il proprio affetto da Harriet a me? Assurdo e insopportabile!» E tuttavia, tale era la sua ansia che ella si sentisse perfettamente al caldo, tale il suo interessamento per il signor Woodhouse e la sua simpatia per la signora Weston, e infine tale lo zelo e l'incompetenza con cui si mise a elogiare i disegni di Emma, che aveva terribilmente l'aria di un innamorato in fieri, e lei durò fatica a osservare il galateo. Per riguardo a se stessa non poteva mostrarsi scortese. Per riguardo ad Harriet, nella speranza che tutto si risolvesse per il meglio, fu addirittura cortese. Ma le costò un certo sforzo, tanto più che nella fase culminante della buaggine del reverendo Elton, gli altri stavano discutendo di qualcosa che a lei sarebbe particolarmente interessato di ascoltare. Ne sentì abbastanza per capire che il signor Weston stava dando informazioni del figlio. Udì ripetere più volte le parole «mio figlio» e «Frank» e ancora «mio figlio». E da qualche altra mezza sillaba sospettò fortemente che ne annunciasse una prossima visita. Ma prima che potesse ridurre al silenzio il reverendo Elton, il soggetto era così irrevocabilmente esaurito che far delle domande per ravvivarlo sarebbe stato, da parte sua, inopportuno. Ora succedeva che, nonostante la decisione di Emma di non sposarsi, c'era nel nome e nell'idea di Frank Churchill qualcosa che sempre l'attirava. Spesso, soprattutto dopo il matrimonio del padre di lui con Miss Taylor, aveva pensato che se mai era costretta a sposarsi, la sola persona adatta per età, carattere e condizione sarebbe stato lui. Egli sembrava appartenerle in forza appunto di quel legame tra le due famiglie e non potevano supporre che proprio a quel matrimonio dovesse pensare chiunque li conosceva. Che Mr. e Mrs. Weston ci pensassero ne era quanto mai persuasa. E pur non avendo affatto l'intenzione di lasciarsi indurre da lui o da chi che sia ad abbandonare uno stato che riteneva più ricco di vantaggi di qualunque altro con cui potessero scambiarlo, provava una forte curiosità di conoscerlo, una decisa intenzione di trovarlo simpatico e di riuscirgli in un certo grado simpatica e una sorta di piacere all'idea che la fantasia degli amici li accomunasse. Dati questi sentimenti, le premure del reverendo Elton non venivano certo a buon punto, ma ella se ne consolò mostrandosi molto cortese nell'atto stesso che si sentiva terribilmente contrariata e pensando che il resto della visita non poteva trascorrere senza riportare in scena la stessa informazione o il suo nocciolo essenziale dalle labbra dell'espressivo Mr. Weston. Così avvenne. Giacché, felicemente sganciatasi dal reverendo Elton e sedutasi a pranzo accanto al signor Weston, questi approfittò del primissimo respiro nell'esercizio dei suoi doveri di ospite, della primissima pausa concessa dalla lombata di Montone, per dirle: «Ce ne mancano solo due per essere nel numero giusto. Mi piacerebbe veder qui altre due persone, la sua graziosa piccola amica Miss Smith e mio figlio. Dopodiché direi che siamo proprio al completo. Credo non mi abbia sentito raccontare agli altri in salotto che aspettiamo Frank. Ho ricevuto una sua lettera stamani e sarà qui entro 15 giorni». Parlando col grado giusto di compiacimento, Emma approvò in pieno l'asserzione di lui che Mr. Frank Churchill e Miss Smith avrebbero davvero completato la partita. «È da settembre», continuò il signor Weston, «che desidera venire. Ogni sua lettera è stata piena di tale desiderio. Ma non può disporre del proprio tempo. Deve accontentare quelli che vanno accontentati. E che a volte, sia detto fra noi, si possono accontentare solo con una buona dose di sacrifici. Ma ora non dubito di averlo qui intorno alla seconda settimana di gennaio. Che gioia sarà per lei! E Mrs. Weston è talmente ansiosa di conoscerlo che non deve essere meno felice». «Sì, lo sarebbe, solo che teme un nuovo rinvio. Non ha fiducia come me nel suo arrivo, ma non conosce come me l'ambiente in cui si muove. Il fatto è, vede, ma resti fra noi. Nell'altra stanza non ne ho fatto parola, poiché ogni famiglia ha i suoi segreti, come lei sa. Il fatto è che un gruppetto di amici sono invitati a Enscombe per gennaio e la venuta di Frank dipende da un cambiamento di programma. Certo, se la visita non è cancellata non potrà muoversi, ma a me risulta che lo sarà, trattandosi di una famiglia per la quale una signora di una certa autorità a Enscombe nutre particolare antipatia. E sebbene si ritenga necessario invitarli una volta ogni 2 o 3 anni, quando si arriva al punto non se ne fa mai nulla. Non ho il minimo dubbio su come finirà la storia e ho tanta fiducia di aver qui Frank prima della metà di gennaio quanta ne ho di esserci io stesso. Ma la sua buona amica laggiù, disse accennando al capo opposto della tavola, ha così poche ubbie ed è stata così poco abituata ad averne ad Harfield che dei loro effetti non riesce a tenerne conto come da tempo uso fare io. «Mi spiace che in questo caso possa sorgere ombra di dubbio», rispose Emma, «ma propendo a darle ragione, signor Weston. Se lei crede che verrà, lo crederò anch'io, perché lei conosce Enscombe». «Ah sì, ho qualche diritto di conoscerlo, sebbene in vita mia non ci abbia mai messo piede. Strana donna quella. Ma per amore di Frank non mi permetterò mai di dirne male, poiché credo gli sia affezionatissima. Un tempo non la ritenevo capace di voler bene ad altri che a se stessa, ma con lui è sempre stata buona. A modo suo, cioè con le sue piccole manie e capriccetti e la pretesa che ogni cosa vada come garba a lei. E che Frank possa suscitare un tale effetto non è cosa, a mio parere, che gli faccia poco onore, perché sebbene non lo direi a nessun altro, quella donna non ha per il prossimo in generale più cuore di una pietra e ha un diavolo di carattere. A Emma l'argomento interessava tanto che subito dopo passati in salotto lo riprese con la signora Weston, augurandole buona fortuna ma aggiungendo che certo il primo incontro le avrebbe causato qualche apprensione. La signora Weston lo ammise, ma aggiunse che sarebbe stata ben lieta d'essere sicura di affrontare le ansie del primo incontro alla data prevista. «Giacché non posso contare sul suo arrivo, non posso essere ottimista come il signor Weston. Ho una gran paura che andrà tutto in fumo. Immagino che il signor Weston ti abbia detto esattamente a che punto sta la faccenda». «Sì, tutto sembra dipendere dall'ipocondria della signora Churchill, che suppongo sia la cosa più certa di questo mondo». «Emma, cara, qual è la certezza del capriccio?» rispose la signora Weston sorridendo. E rivolgendosi a Isabella, che non era stata presente alla prima parte del discorso, «deve sapere, cara signora Knightley, che a mio giudizio non siamo affatto sicuri di vedere Mr. Frank Churchill come suo padre ne è convinto. Tutto dipende dallo stato d'animo e dal beneplacito della zia e dal suo umore. A voi, alle mie due sorelle, posso arrischiare di dire la verità. A Enscombe la signora Churchill fa la pioggia e il bel tempo. È molto lunatica e la sua venuta dipende dunque dal fatto che sia disposta a farne a meno». «Oh, Mr. Churchill, chi non conosce Mrs. Churchill?» rispose Isabella. «Davvero non posso mai pensare a quel ragazzo senza la più profonda compassione. Vivere continuamente con una persona dal fegato ammalato deve essere orribile. È una cosa di cui per buona sorte non abbiamo mai saputo nulla, ma deve essere una vita d'inferno. Sia ringraziato il Dio che non ha mai avuto figli, povere creature come le avrebbe rese infelici». Emma avrebbe desiderato essere sola con Mrs. Weston, perché ne avrebbe saputo di più. Mrs. Weston le avrebbe parlato con un grado di confidenza che con Isabella non avrebbe osato tenere. E ne era certa, non avrebbe cercato di nasconderle nulla dei Churchill, eccetto le idee intorno al giovanotto di cui la fantasia le aveva già dato un'istintiva conoscenza. Ma per il momento non c'era altro da dire, e ben presto il signor Woodhouse le seguì in salotto. Rimanere a lungo seduto dopo pranzo era per lui una costrizione insopportabile. Vino e conversazione non gli dicevano nulla. E con gioia si univa a coloro in mezzo ai quali si trovava sempre a proprio agio. Tuttavia, mentre parlava ad Isabella, Emma trovò modo di dire: «Dunque, la visita del suo figliastro non le sembra affatto sicura?» «Me ne duole. È inevitabile che le presentazioni, in qualunque momento avvengano, debbano riuscir fastidiose, e più presto avverranno, meglio sarà». «Sì, e ogni rinvio aumenta il timore di altri rinvii», disse Lady Weston. «Da parte di lui non voglio neppure immaginare riluttanze, ma sono certa che da parte dei Churchill il desiderio di tenerselo tutto per sé è molto vivo. C'è gelosia, gelosia perfino del rispetto per il padre. In breve, non conto affatto sulla sua venuta e vorrei che il signor Weston fosse meno ottimista». «Dovrebbe venire», disse Emma. «Dovrebbe venire anche se dovesse trattenersi solo un paio di giorni. Ed è inconcepibile che un giovanotto non abbia nemmeno la libertà di fare questo. Una ragazza, se capita in brutte mani, le si può mettere le briglie e tenerla al largo da quelli che vorrebbe frequentare. Ma che un giovanotto si veda limitata la propria libertà di movimento al punto di non poter passare, se ne ha voglia, una settimana con suo padre, davvero non lo si può comprendere». Bisognerebbe essere a Enscombe e conoscere le abitudini della famiglia prima di decidere che cosa può o non può fare, rispose la signora Weston. Bisognerebbe andare altrettanto cauti, forse, nel giudicare la condotta di chiunque in qualunque famiglia. Ma ritengo Enscombe non vada giudicata in base a norme generali. È così terribilmente sragionevole lei e tutti si inchinano alla sua volontà. Ma è così affezionata al nipote. Lo tiene tanto in palma di mano. Ora, secondo l'idea che mi sono fatta della signora Churchill, sarebbe perfettamente naturale che, mentre non fa nessun sacrificio per il benessere del marito, al quale deve tutto, e nei riguardi di lui i suoi capricci non hanno limiti, debba spesso lasciarsi dettar legge dal nipote, al quale non deve proprio nulla. Non pretendere, Emma carissima, col tuo carattere dolce, di capirne uno cattivo o di fissargli delle norme. Devi lasciare che faccia il piacer suo. Io non dubito che Frank abbia a volte una certa influenza, ma può darsi che gli riesca impossibile sapere in precedenza quando l'avrà. Emma ascoltò, poi disse freddamente: «Non avrò pace finché non sarà venuto. È possibile che in certi campi abbia una notevole influenza e in altri pochissima. Ed è fin troppo probabile che fra quelli in cui Frank non ha nessun potere su di lei si trovi proprio questa circostanza del separarsene per venire a farci visita». Il signor Woodhouse fu presto pronto per il tè. Quando l'ebbe bevuto fu belle pronto per rincasare. E tutto quello che poterono le sue tre compagne fu d'impedirgli, intrattenendolo, di accorgersi che il tempo passava prima che gli altri signori comparissero. Il signor Weston era loquace, espansivo, per nulla amico di prematuri addii, ma alla fine la compagnia riunita in salotto ricevette un rinforzo. Uno dei primi a entrare fu il reverendo Elton, d'ottimo umore, che, viste sedute assieme su un sofà la signora Weston ed Emma, si unì immediatamente a loro e, senza essere invitato, vi si sedette in mezzo. Emma, pure di buon umore per il piacere offertole dalla prospettiva della visita di Mr. Frank Churchill, era ormai incline a dimenticarne le recenti grossolanità e ad apprezzarlo come prima. E quando fece di Harriet il tema dominante dei suoi discorsi, fu pronta ad ascoltarlo coi sorrisi più amichevoli. Egli si dichiarò in grande ansia per la bella amica, la sua bella, cara, amabile amica. Sapeva nulla? Ne aveva avuto notizie da quando erano a Randalls? Grande era la sua apprensione. Doveva confessare che la natura del male di cui ella soffriva l'allarmava assai. E in questo stile continuò per qualche tempo a discorrere con molta comprensione, piuttosto indifferente alle risposte, ma tutto sommato abbastanza sensibile all'orrore di un brutto mal di gola. Ed Emma era piena di sentimenti benevoli nei suoi riguardi. Ma di colpo sembrò profilarsi una svolta incresciosa. Parve d'un tratto che dell'essere quello un brutto mal di gola egli avesse paura più per lei, Emma, che per Harriet, e fosse ansioso non tanto che la malattia non avesse carattere infettivo, quanto che Emma evitasse l'infezione. E cominciò con gran calore a scongiurarla, per intanto, di astenersi dal frequentare la camera dell'ammalata, a supplicarla di promettergli di non correre quel rischio prima che avesse visto il signor Perry e conosciuto il suo parere. E sebbene ella cercasse di volgere la cosa in burla e di riportare il discorso sul binario giusto, non ci fu verso di metter fine a quelle manifestazioni di estrema sollecitudine per lei. Emma era seccata. Elton aveva tutta l'aria, inutile nasconderselo, della pretesa d'essere innamorato di lei invece che di Harriet. Poté solo lanciargli uno sguardo. Ma fu uno sguardo tale, pensava, da farlo tornare in senno, e lasciò il sofà per mettersi a sedere accanto a sua sorella e occuparsi interamente di lei. Non ebbe tuttavia il tempo di controllare come il reverendo Elton prendesse il rabbuffo, tanto rapidamente seguì un nuovo argomento di discussione. giacché il signor John Knightley rientrò dall'aver esaminato il tempo e informò tutta la compagnia che il suolo era coperto di neve e continuava a nevicare forte e soffiava un vento dannato, concludendo con queste parole dirette al signor Woodhouse: «Sarà un burrascoso preludio ai suoi impegni invernali, signore. Farsi strada in una tempesta di neve non è cosa da tutti i giorni per il suo cocchiere e i suoi cavalli». Dalla costernazione, il povero Mr. Woodhouse non aprì bocca, ma tutti gli altri ebbero da dirla loro. Tutti si mostrarono sorpresi o non sorpresi, tutti ebbero qualche domanda da fare o conforto da porgere. Quanto a Mrs. Weston e a Emma, fecero di tutto per rasserenare il vecchio gentiluomo e distoglierne l'attenzione dal genero che assaporava piuttosto spietatamente il suo trionfo. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.